di protestate. Noi, noi, noi. Potete vendervi al sistema. Noi, noi, noi. Sono inutili parole. Noi, noi, noi. Siete tutti conformisti all'anticonformismo. Siete tutti conformisti all'anticonformismo. Protestate! Noi, noi, noi! Potete vendervi al sistema! Noi, noi, noi! Sono inutili parole! Noi, noi, noi! Siete tutti conformisti all'anticonformismo! Siete tutti conformisti!